Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kate Middleton. Cosa c'è, Drago? È un saluto da Drago, ma come Kate Middleton? Guarda, assomiglio. Tu assomigli a Kate Middleton, sì. Ma dai, lasciam perdere. Guardami. Ma no, ma K, non assomigli... c'è? Al massimo assomiglia appunto a William. Ma no, no, io voglio essere Kate Middleton. Questo però dovresti parlarne con qualcuno, forse, infatti, questo è tuo Tito, desiderio. Cosa ne dici tu che io voglio essere Kate Middleton? No, tu sei un bassotto, non sei un corgi. Dovresti essere un corgi per avere voce in capitolo. Un corgi. Cioè? Sono i cani della regina. Ah. Tito, no, non sono bassotto, sono cani, non puoi essere sono cani diversi. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Vabbè, allora, bentornati a Chiedo Asilo, la striscia quotidiana di Radio 24 che si occupa delle bambinate nate in Italia e nel resto del mondo. È perché le bambinate non si fanno solo in Italia, Drago. Questo è meglio specificarlo ogni tanto. In perché sennò sembra che solo l'Italia sia un asilo. È vero, quando poi succedono certe cose, anche all'estero non scherzano. Ad esempio, il limite di accettabile puerilità è stato abbondantemente superato nel regno di Sua Maestà Elisabetta II. No, adesso perché? Solo perché ho detto perché che è Middleton. Adesso sai che c'è questo matrimonio, c'è certo questo stempiatello giovane, William. Beh, che è giovane, però un po' stempiatello, sì. Che impalmerà la bella Kate Middleton, appunto. Kate Middleton. E i tabloid inglesi, che sono quei giornali di pettegolezzi che escono ogni giorno in Inghilterra, che ogni giorno devono inventare c'è qualcosa qualche foto per di Kate, sì, magari ce ne sono moltissime. Questi qua stanno facendo ormai un giornalismo da asilo con polemiche pretestuose, naso ficcato dappertutto. Ma lei nuda, in cioè... casa Middleton, no, il naso lo ficcano in casa Middleton e non da altre parti di Kate Middleton. Quindi non ti esaltare subito a sentire certe cose. Quindi indiscrezioni, cose così, insomma, un bailamme smisurato che ricorda un po' quello che c'è qui in Italia intorno al nostro premio. Gli inglesi si sa, alla fine sono tutti fan della famiglia reale, fanno un po' così, però poi dopo si lasciano andare. Così come gli italiani sono tutti fan del nostro premio. Ma cosa oggi? Ma vai avanti, non importa. Vabbè, non è affatto vero che agli inglesi piace la famiglia reale, questo te lo posso dire. La monarchia non è mai andata così male. Ormai tutti cominciano a chiedersi con serietà a cosa diavolo serva. Cioè, cosa serve sull'utilità la regina? Sull'utilità di chi che sia è meglio non indagare, perché si potrebbero fare amare scoperte. Tipo? Tipo che nessuno è indispensabile. Ma come sarebbe a dire, dai? Che nessuno è indispensabile. Sì, dai, Obama, secondo te Obama non è indispensabile? Vabbè, se non ci fosse Obama ci sarebbe un altro, no? Beh, sì, prima di Obama c'era un altro, in effetti. Ha iniziato due guerre, ha tolto il disturbo. Beh, Obama ne ha iniziata solo una. Ma ancora tempo. Volentierissimo. Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facciamo il freestyling e tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo, sono triste e solitario. Gildo, facciamo che tu eri Gildo, il mio amico immaginario. Gildo. Vai con la base. Gildo. Sei come un fantasma. Gildo. Nessuno ti vede. Gildo. Ma c'hai la voce con l'asma. Gildo. Gildo. Siamo culo e camicia. Gildo. Io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il coro. Kate Middleton, dai. Eh? Kate Middleton. Ma cosa far fugli? Dai, ma niente, niente, dai. Kate però... Middleton bella figa? Volevi dire quello? Sì, perché non è vero? Ah, sì, ma è una bella ragazza, però uno della famiglia reale mica si prende una ciofeca, una cosa. Sì, vabbè, ovvio, lo zio di William si era sposato con Sarah Ferguson, però, Però Sarah Ferguson da giovane, dai. Ma Drago, ma non dire sceme, Sarah Ferguson anche da giovane perché? È sempre stata contro ogni tentazione, ma no, ma dai. Comunque a me le rosse, sai. Ma ho capito le rosse, ma torniamo a bomba su Kate Middleton, che io definirei senza dubbio una gran bella ragazza. Abbiamo già capito, sì. Sei proprio una gran bella ragazza. Sono entusiasta di Kate Middleton, io Drago, non so, capito, si sente, Ho capito. William non poteva fare una scelta migliore. Tientela stretta, William. Ecco, poi guarda qui cosa è appena uscito. Kate, sei più bella di Lady Diana. Come no? Sondaggio inglese sulla futura moglie di William. Ha scavalcato la principessa del Galles. Vabbè. Kate Middleton. Dovrebbero dirglielo anche a Lady Di. Lady Di, sei più brutta di Kate, però devono fare un Io sono entusiasta spirito. Di Kate Middleton. Vabbè, sì, diciamo che invece lui... lui William. Sì, William, com'è secondo te? Non è male. Insomma, come no? È un po' stempiato. Ce la faccia un po' cavallina. Come Camilla, no? Ma cosa c'entra Camilla? Camilla? Sì, non c'entra, però invece di assomigliare a Diana, lui assomiglia a Camilla, non so. Sì, vabbè. Ho capito, ma non so, forse la dentatura inglese. Perché la matrigna e lui hanno tutti e due un po' la faccia cavallina. Beh, inglese, tipica proprio, no? Vabbè, ma Kate Middleton è inglese, ma non ha i denti da cavallo. Ancora Kate con Kate Middleton, ma sempre scusa, lì. Ma Kate Middleton, ma te la vedi ubriaca fuori da un pub venerdì sera? Te la vedi? Ho capito, ma adesso... Vabbè, però, siamo un drago, però ho capito, adesso sono finiti quei tempi per Kate Middleton, se mai ci sono stati. Ma no, ci sono stati. Ma tu, se ci sono stati, ma che ne sai? Ma dai, è inglese, di famiglia non nobile, cosa vuol dire sera, di famiglia va non nobile, poi dai. Toy, no? Voi vi comportate così, no? Voi borghesi, ma noi Drago, voi sempre borghesi. Ubriachi, trascurati, abbruttiti, il venerdì, no? Capa, no, non dimmi, cosa c'è? Non dimmi cosa che dopo, c'è? Che dopo 5 o 6 anni che non ti succedeva... Cosa c'è? No, ti stai ritrasformando ne... Il marchese? Presto, Poncio! Ma chi è Poncio? Sei tu, mio fido servitore! Ancora con me dopo tanti anni, no, caro Cappa, Poncio. Ma Cappa, guarda che non ci sto a giocare al marchese, non ne ho voglia. Ah, Poncio, l'adorabile Kate. Ma quale adorabile? Conosciuta Kate? Al Country Club nel 99, quando le piaceva il Negroni. Il fatto è che poi non si controllava e mi finiva regolarmente tra le braccia. Vabbè, Cappa, adesso Kate. anche mitomane. Ah, l'adorabile Kate Middleton. Quando si riprendeva nel letto sfatto, allungava quelle gambe, da cerbiatto, si accendeva una sigaretta senza filo. E diceva: ci facciamo un altro Negroni? Volevo dire Negroni, che è uguali. Il marchese non lo sa quanto è dura, quanto è triste la realtà. Katie. Allora. Oh my Kate, andate. I love you so much. Andate. I need you too much. I need you so much. I wanna Kate. Eccolo. I wanna Kate. Vuole Kate. Mandate delle fotografie inedite che avete fatto a Kate Middleton nei momenti di intimità. Tutti, voi, perché il venerdì sera fuori dal pub, chiunque l'abbia vista può fare una fotografia e mandarla a Chiedo Asilo @radio24.it oggetto K per Kate, anzi no, Kate per K. K per K.